Focus Economia. Venerdì 30 luglio, buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Molti gli argomenti che toccheremo oggi, a partire dall'occupazione, come vi annunciava poco fa il nostro giornale radio. Toccheremo il tema dell'occupazione e anche del piano triennale per il lavoro presentato dal ministro del welfare Maurizio Sacconi. Parleremo naturalmente come sempre di mercati. La giornata oggi è abbastanza positiva, il FTSE MIB guadagna lo 0,32%, in questo momento il FTSE All Share lo 0,21%, complessivamente abbastanza piatta e incerta anche sulla scorta dei dati americani. Il Dow Jones guadagna lo 0,14% in questo momento dopo un iniziale ribasso dopo appunto il dato sul PIL. Parleremo di Enel. Ieri vi abbiamo accennato ai dati della semestrale e poi ne discuteremo in diretta con un ospite, e poi in chiusura torneremo a parlare proprio del dato che si diceva del PIL americano, parleremo di economia americana. Insomma, la settimana scorsa il tema lo abbiamo toccato dicendo in sostanza che gli investitori, e anche in questo sta l'andamento un po' strano nelle ultime settimane dei mercati, pensano che la ripresa americana non sarà così forte come si ritiene. La dimostrazione, o meglio, l'effetto è anche sul mercato dei cambi, lo vedete, oggi l'euro quota 1,30 e 33 contro dollaro. Le notizie in breve di questa giornata. Iniziando dal petrolio, a New York aperto in calo dell'1,7% a $77 al barile. E poi sempre dall'America naturalmente c'è quello che vi dicevamo, il dato sul prodotto interno lordo ha segnato una crescita del 2,4%, le attese del mercato erano per un 2,6%, ma c'è anche un dato positivo, cioè che è stato rivisto a più 3,7% dal più 2,7% il dato del primo trimestre dell'anno. Nel secondo trimestre a frenare la crescita sono stati soprattutto i consumi e il raffreddamento dei consumi, che incidono per il 70% sull'economia americana, e l'ampliamento del deficit commerciale. Sempre dagli Stati Uniti, l'indice dei responsabili per gli acquisti del distretto di Chicago, indicatore dell'andamento del comparto manifatturiero americano, è salito a sorpresa a luglio a 62,3 da 59,1, e poi l'indice di fiducia misurato dall'Università del Michigan si è attestato a 67,8 punti in base alla lettura finale di giugno. Il dato è al di sopra delle attese degli analisti. Dati anche per quanto riguarda l'Europa, la stima flash Eurostat dell'inflazione la dà in salita all'1,7% dall'1,4% di giugno, per quanto riguarda la disoccupazione rimane stabile al 10%. Non così in Spagna, dove aumenta ancora la disoccupazione, nel secondo trimestre del 2010 è cresciuta di 4 centesimi di punto percentuale rispetto a marzo, al 20,09%, il tasso più alto dal 97%. E tra l'altro è molto probabile che la Spagna perderà il rating di AAA, anche se il declassamento non sarà così drastico come è avvenuto per la Grecia, lo ha affermato l'economista di Moody's Steven Hess in un'intervista. Il premier spagnolo José Luis Zapatero ha annunciato oggi che la finanziaria 2011 sarà necessariamente restrittiva e austera e che realizzerà una profonda riforma delle politiche attive di impiego. E poi ci sono i dati dall'Italia che sono paralleli a quelli arrivati dall'Europa. A luglio l'inflazione è cresciuta dell'1,7% su base annua, accelerando rispetto al più 1,3 registrato in giugno, il tasso più alto dal dicembre del 2008. A pesare alcuni elementi come ad esempio benzina e gasolio, più 8,9% per la prima, più 13,2% per la seconda in un anno. Al netto della componente energetica, infatti, l'inflazione è stata dell'1,3%. A proposito sempre di Italia, arrivano notizie per quel che riguarda le auto blu. È stato presentato un decalogo dal ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta. Si parla di diffusione di modelli di car sharing con o senza autista, estensione delle limitazioni per l'acquisto di autovetture superiori a 1400 cc. L'obiettivo previsto è quello di raggiungere un risparmio di 2 miliardi in 3 anni. Ha parlato oggi anche il ministro dell'economia Giulio Tremonti, qualcosa vi accennavamo nel giornale radio. Tremonti ha chiarito che non era all'ordine del giorno la nomina del ministro dello sviluppo economico, si era fatto il nome, come sapete, di Paolo Romani. Per quanto riguarda la sanità, è stata commissariata, come già vi diceva il giornale radio, la Regione Calabria. Sentiamo su questo dunque il ministro Tremonti. La Calabria ha un sistema di sanità piuttosto complesso, non ha contabilità, la contabilità in Calabria è sulla sanità di tipo omerico, narrativo, non c'è una base contabile affidabile e quindi non c'è un criterio di gestione. Abbiamo deciso il commissariamento, il commissario accetterà. Dobbiamo organizzare il ritorno dello Stato nella forma della Guardia di Finanza. La sanità verrà gestita dal commissario, si avvarrà il commissario della Guardia di Finanza per ricostruire i sistemi contabili. Sarà il ritorno dello Stato, non sarà la Guardia di Finanza come controlli, sarà la Guardia di Finanza come ricostruzione della base amministrativa essenziale per amministrare la cosa pubblica. Il buco 2009 della sanità calabrese tra l'altro ammonta a 204 milioni di euro, nel periodo 2003-2009 rosse di 743 milioni di euro. E poi c'è la polemica con la Regione Puglia, della quale anche questa vi riferiva il giornale radio. Il governo non intende tollerare che la Puglia diventi una nuova Grecia, dice il ministro dell'economia, una situazione non responsabile, non vogliamo che la Puglia finisca come la Grecia e poi la pagano i pugliesi e gli altri. La reazione di Vendola, anche questa l'avete sentita poco fa, un sabotaggio politico, economico e sociale. Dice Vendola, presidente della Regione Puglia, paragonare la Puglia alla Grecia significa dare da parte di un ministro dell'economia indicazioni alle agenzie di rating e dare così un colpo mortale alla Puglia. Semestrale è arrivata poco fa quella di Alitalia, ricavi a 1.480 milioni di euro nei primi 6 mesi del 2010, in crescita del 13% rispetto al primo semestre 2009. Il risultato operativo del semestre è stato negativo per 129 milioni, erano 273 milioni di passivo al 30 giugno 2009, di cui 11 milioni nel secondo trimestre. Veniamo al primo tema di questa giornata, appunto l'occupazione. Perché se resta stabile la disoccupazione in Europa, non lo resta invece in Italia, dove anzi scende dall'8,6% che numero al quale è rimasta stabile tra marzo e maggio, a giugno è scesa all'8,5%. Calano, e questi sono altri dati interessanti, tanto la disoccupazione giovanile quanto la disoccupazione femminile. E allora sentiamo il servizio della nostra Roberta Pellegatta. Per la prima volta dal gennaio 2010 il tasso di disoccupazione in Italia è in calo. Un calo, a dire il vero, molto lieve. Il tasso, dopo essere rimasto immobile all'8,6% da marzo a maggio, a giugno è sceso all'8,5%, 44.000 disoccupati in meno rispetto ai mesi precedenti. Il miglioramento, secondo l'Istat, è collegato soprattutto alla diminuzione dei disoccupati tra le donne e i giovani. Il tasso di disoccupazione dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni è sceso al 27,7% dal 28,4% di maggio, mentre quello femminile è pari al 9,6%, in miglioramento rispetto a maggio di 0,2 punti percentuali. Stabile al 7,7% il tasso di disoccupazione maschile. Il commento dei dati di Carlo Della Ringa, docente di economia politica all'Università Cattolica di Milano. I dati confermano una cosa, cioè che la crisi, avendo colpito soprattutto alcuni settori piuttosto che altri, cioè il manifatturiero, le costruzioni, e si tratta di settori ad elevata percentuale di occupazione maschile, ecco, ancora una volta i dati confermano che la crisi ha colpito più i maschi che non le femmine, e quindi la riduzione della disoccupazione femminile e il piccolo aumento dell'occupazione femminile stanno a significare proprio questo effetto sulla composizione della forza lavoro dovuto alle diverse caratteristiche della crisi nei vari settori produttivi. Secondo Eurostat, del resto, dal maggio del 2009 il tasso di disoccupazione maschile in Europa è superiore a quello femminile. A gennaio 2010 nell'Unione Europea le donne senza lavoro erano il 9,3% contro il 9,7% degli uomini. Anche negli Stati Uniti, per gli stessi motivi spiegati a Della Ringa, è successa la stessa cosa. Piuttosto scettico il professore anche sulla diminuzione della disoccupazione giovanile. Per quanto riguarda i giovani non si hanno novità di rilievo, perché anche se la disoccupazione è diminuita non si hanno segnali positivi sul fronte dell'occupazione, quindi probabilmente la diminuzione della disoccupazione è dovuta a un aumento della inattività. Può darsi che anche che molti giovani siano rimasti nel sistema scolastico o della formazione in attesa di avere occasioni migliori nel mercato del lavoro, o può darsi che anche alcuni di loro siano stati scoraggiati anche dal cercare del lavoro. Nel complesso si deve dire che il giudizio è positivo, nel senso che gli effetti negativi si sono arrestati. Adesso aspettiamo la ripresa del mercato del lavoro, ma io ritengo che questa ripresa sarà molto debole e sarà molto rallentata e probabilmente dilazionata nel tempo, proprio perché le imprese dovranno utilizzare tutta quella manodopera che hanno trattenuto anche grazie al funzionamento degli ammortizzatori sociali nel periodo di crisi più profonda. Era Carlo Della Ringa, docente di economia politica all'Università Cattolica di Milano, sui dati relativi alla disoccupazione. Così invece il ministro del welfare Maurizio Sacconi. Non posso non sottolineare con molto favore il fatto che per la prima volta dall'inizio della crisi il tasso di disoccupazione scende e scende all'8,5. Stiamo andando nella direzione giusta. Sacconi ha commentato i dati sulla disoccupazione in occasione della presentazione del piano triennale per il lavoro approvato oggi dal Consiglio dei Ministri. Un piano che prevede un fisco più leggero su quella parte del salario che, in base ad accordi aziendali o territoriali, consente di aumentare la produttività o gli utili delle società. Gli sgravi fiscali sul salario di produttività si applicheranno a partire dal 2011 per i redditi fino a 40.000 euro rispetto agli attuali 35.000, con un'aliquota che potrà anche essere superiore all'attuale 10%. Sentiamo il ministro Sacconi. Quando c'è un accordo di produttività, non solo il salario collegato alla produttività direttamente, non solo il salario, il premio insomma, per capirci, non solo il premio, ma anche quell'aumento di salario che deriva da turni, da straordinario, da cambiamento dell'organizzazione del lavoro finalizzata a maggiore produttività, entra nella detassazione, e cioè quell'aumento tipico di Pomigliano. In quel caso deriva da turnazione, straordinario, lavoro notturno. Quando è dentro un disegno di produttività concordato dalle parti, è soggetto alla detassazione. Roberta Pellegatta, GR24, Il Sole 24 Ore. Questo è il quadro dunque sulla disoccupazione in Italia. Ne abbiamo parlato lungamente, come sapete, anche ieri, a chi ci chiede se magari si sta riducendo la cassa integrazione. In effetti i dati che sono stati forniti ieri dall'Istat, ci suggeriscono esattamente questo, perché a maggio l'utilizzo della cassa integrazione guadagni nelle grandi imprese è stato pari a 29,9 ore per 1000 lavorate, sceso di 14,2 ore per ogni 1000 lavorate su base annua. E la base che sentite, la nuova base che sentite, ci segnala il cambio di argomento e siamo a fare il punto sull'economia americana. Il PIL degli Stati Uniti nel secondo trimestre 2010 ha segnato una crescita del 2,4%. È stato rivisto al più 3,7% il dato del primo trimestre, dal più 2,7%. Lo scostamento è di un punto percentuale, quindi da una parte ci sono dati negativi, dall'altra parte ci sono dati positivi, perché questo più 2,4% gli analisti non se l'aspettavano, si aspettavano un qualcosina di più. Ci sono altri segnali che sono arrivati nei giorni scorsi, tra cui, tanto per dirne uno, il famoso beige book della Federal Reserve, la ripresa rallentata in alcune aree degli Stati Uniti, dice la Fed, e dice anche il mercato del lavoro è leggermente migliorato, dato confermato il giorno dopo dai sussidi di disoccupazione che sono diminuiti di 11.000 unità. È di questo che vogliamo parlare con Alberto Alesina del Dipartimento Economico dell'Università di Harvard ed editorialista del Sole 24 Ore. Professore, buonasera. Buonasera a lei. Allora, all'inizio della settimana scorsa, facendo un punto sui mercati, si tornava sulle preoccupazioni degli investitori e dei mercati medesimi sul fatto che la ripresa americana non sia così forte come ci si aspettava, insomma non sia la tradizionale ripresa americana, insomma quella a bomba dopo la recessione. Lei che segnali coglie in questo periodo, professore? Ma credo che sia così, penso che ormai sia assodato che la ripresa da questa crisi sia più lenta e meno robusta da altri cicli, anche per la gravità stessa della crisi e per certi problemi sui mercati finanziari che ha generato. Quindi credo che da un lato non bisogna esagerare nel pessimismo, nel senso che solo un anno e mezzo fa ci avessero detto che oggi siamo nella situazione in cui siamo, tutti saremmo stati molto contenti. Dall'altro bisogna riconoscere che, come dice la Fed, la ripresa è incerta. Credo che l'amministrazione Obama farebbe meglio a mettere sotto controllo il deficit per rassicurare i mercati e gli investitori. C'è troppa incertezza sull'assetto fiscale, secondo me, in questo momento. Sì, perché poi c'è anche questo di problema, professore Alesina, e ne parlavamo proprio la settimana scorsa. Insomma, si diceva: è vero, c'è un problema, un grosso problema, soprattutto per alcuni paesi dell'Eurozona sul fronte del debito sovrano e del deficit. E però attenzione che con tutti i salvataggi di Stato, i piani, i recovery plan, i piani di recupero, insomma, che sono stati varati dalle amministrazioni, insomma, sì, sono messi meglio gli Stati Uniti, magari dell'Italia, però non è che siano messi così bene sul fronte dei conti pubblici. No, non sono messi affatto bene. Gli Stati Uniti hanno il vantaggio di avere una credibilità molto forte, quindi di avere dei tassi di interesse molto bassi, di avere un grosso mercato per i loro titoli che vengono acquistati facilmente, ma il fisco americano è in grossissima difficoltà. Io credo che l'amministrazione Obama stia altamente sottovalutando questo problema, non solo, ma questa idea che aumentando a destra manca, pioggia la spesa pubblica, si riduca la disoccupazione e si aumenti la crescita, secondo me è ormai superata dagli eventi. Credo che il problema sia quasi il problema opposto, cioè che gli investitori sono preoccupati del deficit, le imprese fanno profitti ma non investono perché temono cosa potrà succedere alle tasse e ai regolamenti. Quindi credo che l'amministrazione Obama dovrebbe mettere sotto controllo i conti pubblici con un piano credibile di rientro dal deficit. E come si fa questo? Si fa con mettendo sotto controllo la spesa e cercando di frenare quei meccanismi automatici di aumento di spesa, mettendo sotto controllo per esempio la spesa sanitaria, rimettendo in sesto le finanze locali che sono anche loro in grosse difficoltà. Credo che non si debba invece precipitarsi ad aumentare le imposte, che invece l'amministrazione Obama sta parlando non rinnovare la riforma fiscale di Bush che aveva ridotto le imposte e quindi di aumentarle soprattutto per le fasce più alte. Credo che il rientro debba farsi dal lato delle spese. Mi sembra di capire, professore, lei stia suggerendo all'amministrazione Obama una soluzione all'europea, mettiamola così. Assolutamente sì, io come forse, come immagino spesso, sono stato critico dell'Europa guardando gli Stati Uniti come un esempio. In questo caso io credo che l'Europa stia seguendo la politica giusta e gli Stati Uniti quella sbagliata. Credo che sia un momento in cui gli Stati Uniti devono imparare dall'Europa. C'è un altro fronte, professore, in questa ripresa a macchia di leopardo degli Stati Uniti, che è quello dei consumi, che sono sempre stati lo storico traino dell'economia americana. Se non erro, mi corregga se sbaglio, le ultime cifre che avevamo è che rappresentano circa il 70% del prodotto interno lordo. Probabilmente qualcosina si è eroso in quest'ultimo periodo, e però su quel fronte non ci sono assolutamente segnali di recupero. E come lei sa, i consumatori americani erano estremamente indebitati al momento della crisi, anzi uno dei motivi della crisi è stato proprio l'eccesso di debito dei consumatori americani, che si stanno un po' rimettendo in sesto i propri risparmi. E poi credo che questa incertezza sul deficit influenzi le loro attese. I consumatori americani si aspettano che le tasse salgano perché vedono questi deficit fuori controllo e quindi sono preoccupati e spendono meno. Credo che la ripresa negli Stati Uniti in questa recessione debba venire più che in altre da un recupero degli investimenti, e per non parlare dell'esportazione. Gli investimenti, come ripeto, le imprese hanno moltissimi profitti, gli ultimi dati sui profitti sono stati estremamente positivi, solo che le imprese non investono per una serie di motivi, tra cui credo l'incertezza sul futuro della politica fiscale. Non ha l'impressione che in quest'ultimo periodo, forse può darsi che questo sia stato uno dei problemi dell'amministrazione Obama, si siano messe un po' troppe cose sul piatto? Insomma, c'è stata questa riforma della finanza che mi sembra che non abbia raccolto un parere grandemente favorevole da parte degli esperti, e però sulla quale si sono concentrate moltissimo le energie governative e parlamentari americane, magari tralasciando un pochino quel che ci diceva lei, ossia appunto il controllo dei conti pubblici. Purtroppo non è colpa dell'amministrazione, nel senso che il fatto che abbia ereditato due guerre, una crisi finanziaria straordinaria, un problema della sanità molto forte, non è colpa dell'amministrazione. Quindi purtroppo la carne al fuoco c'era e non si poteva evitare. Credo che l'aspetto della spesa pubblica non sia un aspetto di troppa carne al fuoco, sia un problema secondo me un po' più profondo, cioè che gli economisti dell'amministrazione Obama stessa stanno seguendo un approccio, diciamo, estremamente scolasticamente keynesiano, che poteva andare bene nel 2009, va bene lo stimulus nel 2009, che poi è servito, ma a questo punto siamo in una fase in cui bisogna rientrare in modo credibile. Credo che questa impostazione spendi keynesiana sia qualcosa che va superata, imparando dall'Europa, come si diceva prima. Ho un ultimo paio di domande per lei, professore, e ci arrivano dagli ascoltatori. Inizierei da questa: lei ci citava la necessità di tagli della spesa e citava anche la spesa sanitaria tra queste. Che impatto avrà la riforma a sua impressione? Poi naturalmente immagino si esplicherà nel corso di un periodo abbastanza lungo di tempo. E però che impatto può avere su questo fronte? Le stime che ho visto al momento in cui la riforma fu approvata dal Congressional Budget Office erano che la spesa sanitaria non sarebbe aumentata molto con la riforma, però sono stime molto difficili da fare. Si pare che non dovrebbe aumentare molto, però la spesa sanitaria era su un trend già di per sé di salita che va in qualche modo aggiustato. E l'ultima domanda, un ascoltatore ci ricorda giustamente la famosa vicenda dei deficit gemelli, insomma, perché non c'è solamente il deficit di bilancio puro, c'è anche il deficit commerciale, che tra l'altro si è ampliato a 425,9 miliardi di dollari dai 338,4 nel secondo trimestre rispetto ad un anno fa. Si sottraggono alla crescita 2,8 punti percentuali, questo viene calcolato. E questo è l'altro grande fronte, suppongo, professore. C'è un altro fronte di riequilibri commerciali tra Stati Uniti e Cina, è un discorso di cui si parla da tempo. La Cina sta crescendo in modo sempre molto sostenuto, quindi prima o poi i cinesi cominceranno a consumare di più, e questo aiuterà a rimettere in sesto anche il deficit commerciale. tornando al punto di prima, credo che un aumento degli investimenti e un aumento della produttività negli Stati Uniti possa favorire anche le esportazioni, ma credo che i cinesi debbano fare il loro tra virgolette dovere, cominciare a consumare di più e a permettere al loro tasso di cambio di aggiustarsi. Grazie dunque ad Alberto Alesina del Dipartimento Economico dell'Università di Harvard, editorialista del Sole 24 Ore. Grazie professore, buonasera. Grazie a lei, buonasera. Paolo Paronetto, Radio Cori, il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, a definire incerta questa giornata non ci sbagliamo. No, certo che no, anzi è stata proprio una giornata a due facce, che è chiusa sulla parità, proprio come a testimoniare un andamento che ha seguito nel corso della giornata la diffusione di importanti dati macroeconomici provenienti dagli Stati Uniti. Quindi se in particolare i listini hanno risentito nel primo pomeriggio della pubblicazione del dato sul PIL statunitense del secondo trimestre, che è risultato lievemente peggiore delle attese e quindi hanno perso terreno, poi un'altra serie di dati, in particolare uno sulla fiducia e dei consumatori statunitensi migliori delle previsioni, hanno permesso ai listini di chiudere appena sotto la parità per quanto riguarda Milano, mentre ad esempio Francoforte sta chiudendo appena sopra la parità. Sono giorni di semestrali, come sapete. Iniziamo dalla più recente, Paolo, che è quella che è stata diffusa una mezz'ora fa circa da Autogrill. Sì, Autogrill ha chiuso le quotazioni in calo dell'1,5%, anche se il livello non è ancora definitivo al momento. Poco prima della chiusura la società ha reso noti i conti semestrali, che si sono chiusi con un forte aumento dell'utile netto di oltre l'80% a 23,5 milioni. Si segnala tuttavia che nel secondo trimestre il risultato è stato in calo rispetto allo stesso periodo di un anno prima. Gli investitori comunque avevano penalizzato il titolo fin dall'avvio, e che ha chiuso, come dicevamo, in calo di 1,5%. Questo sul fronte di Autogrill. Giornata negativa, quindi iniziamo dalle note dolenti anche per Bulgari. Il calo è del 4,22% oggi. Esatto, Bulgari è stata penalizzata ed è stata in coda al FTSE MIB per tutta la seduta. Anche in questo caso si tratta di una reazione ai conti semestrali che sono stati diffusi ieri. Il gruppo ha riportato nei primi sei mesi dell'anno una perdita di 7,7 milioni, una perdita che è in calo rispetto ai 40,5 milioni dello stesso periodo del 2009. Confermate anche le stime sul 2010, forse il mercato si poteva aspettare un miglioramento delle stime, dato che ad esempio l'amministratore delegato ha dichiarato che le iniziative messe in atto potrebbero permettere alla società di superare le stime nel secondo semestre, però non c'è stata al momento una revisione della guidance e quindi anche per questo il titolo è stato penalizzato. Probabilmente per gli stessi motivi Parmalat, in calo del 3,28%. Ieri vi abbiamo fornito i dati della semestrale che evidentemente non sono stati ben accolti dal mercato. E stesso dicasi per Italcementi, meno 3,01%. Sì, Italcementi in particolare è stata penalizzata dopo i conti anche in questo caso. Italcementi nel semestre ha registrato un calo dell'utile netto di quasi il 36%, c'è da dire tuttavia che già fin dall'avvio il titolo di Italcementi insieme a tutto il settore costruzioni era penalizzato. Il settore costruzioni in Europa è stato il peggiore, oggi ha perso l'1,3%, penalizzato, dicevo, dall'andamento della francese Lafarge, che ha chiuso in coda al CAC 40 con un meno 3,66%. A penalizzare il settore sono state soprattutto il taglio operato dalla Lafarge sulle stime sul mercato europeo del cemento per il 2010. Giù Telecom Italia del 2,93%, ma è andata bene nei giorni scorsi. Giù anche Fondiaria Sai del 2,09%, Pirelli del 2,01%, Autogrill, si diceva, è sceso dell'1,5%, Mediolanum dell'1,46% e all'incirca dello stesso Mediaset. Giù la Popolare di Milano dell'1,16%, Mediobanca dell'1,15%, A2A dell'1,03%, CIR dell'1,02%. Veniamo alle note migliori di questa giornata. Luxottica un più 1,42%, c'è qualche motivo particolare o... No, per Luxottica diciamo che vale il discorso inverso rispetto a quello fatto da Telecom. Luxottica veniva da quattro sedute di calo, dopo la pubblicazione dei conti semestrali il titolo aveva perso dal 26 luglio a ieri circa il 4,5%, oggi c'è un recupero dell'1,4%. Sì, ci sono i conti e poi naturalmente c'è il rafforzamento dell'euro sul dollaro del quale abbiamo parlato nei giorni scorsi a 1,30,49 in questo momento. Ebbene, anche Enel, ti chiedo di essere breve perché poi sarà uno degli argomenti di approfondimento, un più 1,01%. Sì, Enel è stata tra i migliori sul FTSE MIB fin dall'avvio, in questo caso appunto è l'effetto positivo dei conti e in particolare del rialzo delle stime sulla redditività nel corso del 2010. E poi ancora c'è anche qua un lieve recupero di Ansaldo STS e però negli ultimi tre giorni abbiamo visto che le cose sono andate malissimo, quindi questo più 0,65% forse non conforterà. Sì, esattamente, tra l'altro proprio sul finale della seduta ha ridotto considerevolmente i guadagni che quando mancava più tempo alla chiusura erano decisamente più consistenti, come dicevi tu ha vissuto dopo la pubblicazione anche lei dei conti delle giornate decisamente negative, un lieve rialzo che però non compensa le flessioni recenti. Il titolo è appena sopra quota 10 euro adesso, 10,03. Allora, abbiamo Eni che è in perfetto pareggio, Atlantia che guadagna lo 0,20%, Prysmian lo 0,46%, Tern lo 0,71%, ST Microelectronics poco di più, Lottomatica lo 0,80%, e però il titolo migliore del listino oggi, almeno sul FTSE MIB, è Exor, un più 1,66%. Come mai? Exor in questa seduta, che è stata positiva anch'essa fin dall'avvio, a premiare, quindi in questo caso sono i giudizi di alcuni analisti, in particolare Goldman Sachs ha inserito il titolo di Exor nella propria selected list, cioè nella lista dei titoli preferiti a livello europeo, in una seduta di questo tipo che sul fronte del settore auto non ha offerto particolari spunti, gli investitori hanno premiato il titolo Exor per questo motivo. Abbiamo parlato a lungo delle banche questa settimana per ovvi motivi, perché come sapete, come vi abbiamo raccontato, venerdì sono stati pubblicati gli stress test, sono andate complessivamente bene mi sembra nel corso della settimana, Paolo, oggi cedono qualcosina. Sì, esattamente, è stata una settimana decisamente positiva, il settore bancario ha trainato i listini in gran parte delle ultime sedute, come ricordavi tu gli investitori sono stati sollevati dall'esito degli stress test europei che a livello generale hanno dimostrato la capacità del settore bancario continentale di resistere a eventuali futuri nuovi shock sul fronte economico. Oggi dopo i guadagni recenti è stata una seduta di ritracciamento, di calo generalizzato, anche se non particolarmente rilevante, a livello europeo il sottoindice delle banche ha perso lo 0,4%. Questo sul fronte europeo, a chi ci chiede di Saipem il calo è dello 0,61%, Fiat cede un mezzo punto percentuale circa, Paolo, quindi non ha risentito particolarmente del fatto che Exor abbia beneficiato, diciamo, di quella che possiamo chiamare una promozione da parte di Goldman Sachs, mi sembra. No, questa è stata proprio una promozione limitata Exor su valutazioni che riguardano proprio la finanziaria, che è azionista di riferimento di Fiat. La casa torinese non ne ha risentito e si è mossa diciamo con un calo punto, come ricordavi tu, di mezzo punto percentuale, facendo un pochino peggio del settore europeo dell'auto, che ha chiuso con un più 0,3. Bene, grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore, grazie in particolare a Paolo Paronetto, grazie Paolo, buonasera. Grazie a voi. Parliamo di una società che non è quotata in realtà sulla borsa di Milano ma in quella di Parigi ed è una multinazionale, ossia Eutelsat. Allora, Eutelsat fornisce servizi fissi e mobili per le telecomunicazioni attraverso una rete di 26 satelliti. È il primo operatore satellitare in Europa e terzo nel mondo per quanto riguarda il servizio video e lo scambio dati. Attraverso i satelliti del gruppo vengono trasmessi 3.400 canali TV e 1.100 canali radio. La sede centrale del gruppo è a Parigi, i dipendenti sono 650, il giro d'affari supera il miliardo di euro, quotata alla borsa di Parigi, capitalizza 6,1 miliardi di euro. E il presidente di Eutelsat, anche di questo ci fa piacere naturalmente, è un italiano, Giuliano Berretta, che è al telefono con noi. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera Presidente. Allora, avete diffuso i dati nella giornata di oggi, sono dati, mi sembra, complessivamente positivi, se non erro il giro d'affari è in crescita di circa un 11%. Sì, esattamente 11,3%. Un record di crescita in effetti, perché normalmente la media per noi è stata del 7% negli anni passati e superiamo di gran lunga i nostri competitori principali. Se non ho visto male, Presidente, il mercato ha accolto abbastanza tiepidamente i risultati, no? C'è stato un lieve calo dello 0,18%. Adesso in crescita, in questo momento. La borsa è variabile. Comunque penso che in gran parte erano stati previsti dagli analisti questi risultati, anche se devo dire che sono superiori al consensus che c'è stato. Sul fronte invece degli ordini, mi sembra che anche su quel fronte mi sembra di capire che le cose vadano piuttosto bene. Certo, certo. Il portafoglio ordini è aumentato del più del 20%, 23%, e siamo a 4,7 miliardi di euro di portafoglio ordini, quindi una cosa importante, sono parecchi anni di portafoglio per il futuro. E questo mi sembra anche che dia un segnale importante per quel che riguarda le prospettive dei prossimi anni. Certo, ci sono due ragioni che penso che le prospettive siano particolarmente buone. Una è che si comincia a sentire l'effetto dei satelliti che sono comprati recentemente e messi in orbita. E poi perché saranno messi in orbita nei prossimi 3 anni ben 6 satelliti, perlomeno già approvati e già in costruzione. E questi aumenteranno la capacità e siccome siamo un po', diciamo, piuttosto limitati nella capacità che nel mercato, penso che questo darà un ulteriore impulso. E diciamo così che forse è una cosa che ci fa un pochino più piacere, ci dà anche qualche segnale positivo in giornate abbastanza complicate e ancora oscillanti per quel che riguarda lo scenario economico, o dà anche un segnale positivo per quel che riguarda, come dire, la situazione economica generale. Certo, certo, nell'anno che è stato l'anno terribile, diciamo, attuale, in effetti per Eutelsat è stato un anno molto buono perché abbiamo avuto un aumento del titolo in borsa del quasi il 60%, quindi vuol dire che il mercato ha apprezzato e questo è stato in conseguenza anche di buoni risultati, quindi sono anche degli aspetti positivi in questo momento. Bene, ringraziamo Giuliano Berretta, presidente di Eutelsat, per essere stato con noi. Lo lasciamo al suo lavoro a Parigi. Buonasera, presidente. Grazie, arrivederci. E veniamo all'ultimo argomento di questa giornata. Parliamo di Enel. Perché? Perché ieri vi abbiamo fornito i dati, sono usciti alle 17.15 in corso di trasmissione, non abbiamo avuto modo di approfondire, insomma naturalmente parliamo della principale azienda elettrica italiana, della seconda azienda elettrica europea. Come vi abbiamo raccontato ieri, inizialmente il mercato ha valutato i dati in una certa maniera, nel senso che nell'ultimo quarto d'ora il titolo ha perso circa uno 0,7%, guadagnava poco più dell'1 è sceso ad uno 0,36%. Oggi invece le cose sono andate decisamente meglio, forse appunto gli investitori hanno analizzato più attentamente i conti, hanno avuto tempo di analizzare più attentamente i conti. Saluto Luigi Ferraris, direttore amministrazione finanza e controllo di Enel. Buonasera Ferraris. Buonasera a lei. Allora, ieri i risultati sono stati giudicati negativamente dal mercato, c'era un utile in calo di un 31% circa, in realtà c'è anche un motivo per questo, qual è? Diciamo che l'utile in calo del 31% circa non tiene conto del fatto che nel corso del 2009 abbiamo avuto 2 partite straordinarie, da un lato un provetto di carattere finanziario di quasi 1 miliardo di euro che riguardava rilascio a conto economico della famosa put option con Acciona, quindi un provento per noi, oltre alla plusvalenza realizzata sulla cessione della rete alta tensione a Terna. Al netto di queste partite, il nostro risultato netto ordinario risulterebbe in crescita del 11%, che poi peraltro, sottolineo, il risultato netto ordinario è quello che interessa i nostri azionisti, perché su quello viene calcolato il dividendo a fine anno. E ci sono prospettive positive, ci è sembrato di capire, e forse questa è la cosa che è più stata apprezzata dal mercato oggi per quanto riguarda il 2010 nel suo complesso. Certamente sì, il nostro amministratore delegato, alla luce dei risultati riportati in particolar modo in termini di margine operativo lordo che evidenzia una crescita dell'11% e alla luce anche di uno scenario di mercato che si sta facendo più favorevole in particolar modo per quanto riguarda la domanda di energia elettrica nei principali paesi dove è nel presente, ha, come dire, aumentato i target di fine anno dicendo che ci aspettiamo un margine operativo lordo superiore ai 16 miliardi che originariamente ce l'avamo impegnati a raggiungere per la fine di questo anno. Questo tradotto poi in termini pratici vuol dire che evidentemente anche l'utile ordinario di conseguenza mostrerà un aumento, quindi sarà un miglioramento per i nostri azionisti. Sì, anche questi sono segnali di ripresa, no? Perché quando si stima una crescita dell'utilizzo di energia è evidente che vuol dire anche che c'è un'attività produttiva che riprende, perché non è che consumiamo energia solamente, come dire, nelle nostre case per l'aria condizionata, ma la consumano anche le aziende, no? Assolutamente ragione, questo vale per l'Italia dove abbiamo visto nei primi sei mesi un 1,8%, ma vale soprattutto in paesi dove Enel oggi è leader, penso alla Spagna dove nei primi mesi abbiamo avuto un 4% di crescita, o in Latin America dove in alcuni casi abbiamo raggiunto anche una cifra a due cifre, quindi intorno al 10%. Quindi direi dal punto di vista, o meglio grazie alla diversificazione, catturiamo la crescita nei mercati dove noi oggi siamo presenti e questo evidentemente è un elemento a supporto di un miglioramento dei risultati nella seconda parte dell'anno. Allora, verrei anche a un dato che sembra testimoniare abbastanza chiaramente che la crescita delle cosiddette energie rinnovabili, bene vanno le cose anche per Enel Green Power, si parla di un più 10% sui ricavi del semestre, 1,04 miliardi e un più 13% per l'utile. Esattamente così, oggi, ieri o meglio per la prima volta abbiamo rilasciato un comunicato stampa riguardante Enel Green Power, che è una società che come abbiamo detto più volte è destinata a essere quotata, in particolare Enel ne cederà una quota di minoranza. I risultati che abbiamo riportato alla fine del primo semestre sono sicuramente di ottimo livello, una società che ha generato 650 milioni di euro di margine operativo lordo, quindi di fatto questo è la cassa allo stato puro che quindi servirà a finanziare gli investimenti e consentirà a questa società di crescere grazie anche alla diversificazione e tecnologica e territoriale che ha conseguito. Sul fronte dei tempi della quotazione di Enel Green Power, Ferraris, mi sembra che qualche rinvio ci sia stato. Vi siete fatti un'idea di quando possano essere le condizioni più favorevoli di mercato? Dire oggi quando sono le condizioni più favorevoli del mercato. Beh, certo. Soprattutto in questa fase, esatto. Per carità. Quello che le posso dire, quello che noi stiamo facendo è cercare di essere pronti, come si dice, a schiacciare il pulsante a partire dalla seconda settimana di ottobre. Ed è quello che in questo momento stiamo realizzando, stiamo portando avanti tutte le attività relative al processo di quotazione, quindi ci aspettiamo per quella data di essere pronti. E a quel punto, se le condizioni di mercato saranno favorevoli, schiacceremo il pulsante e procederemo alla nostra quotazione. Ok, l'idea quindi è di essere pronti nel momento nel quale vi sembrerà che sia possibile farlo. Sì, esattamente così. Noi saremo pronti comunque già a partire da ottobre. Poi quindi se ottobre le condizioni di mercato ce lo consentiranno, lo faremo a ottobre. Bene, grazie anche a Luigi Ferraris, direttore amministrazione finanza e controllo di Enel, per essere stato con noi. Buonasera Ferraris. Grazie, buonasera a tutti. Si chiude così anche questa puntata di Focus Economia, giusto per chiudere a chi ci chiede di Unicredit, forse il titolo che oggi ci è sfuggito, abbiamo detto che le banche nel loro complesso sono andate abbastanza male, il calo è stato dello 0,23% e a chi ci chiede i Tenaris, sempre sul FTSE MIB siamo in calo dello 0,26%, 0,23% di calo anche per Geox con l'euro che quota in questo momento a 1,3063 contro dollaro. E io ringrazio Filippo Aureggi in regia, Mauro Del Corno e Barbara Bianchi in redazione. Ringrazio come sempre tutti voi per l'ascolto. Una buona serata da Simone Spezia. Il Focus Economia torna lunedì dopo il GR delle 17 con Sebastiano Barisoni. Radio 24. La passione si sente.